cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. There must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a pill out the watch with just out the watch word. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo questa trasmissione con una dedica all'Erote Zora, prendendo uno stralcio di un'intervista che proprio l'Erote Zora hanno rilasciato anni fa e che potete trovare facilmente in rete. Rote Zora e la sua banda è una fiaba di una ragazzina terribile che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Fare bande, muoversi al di fuori della legge, sembra essere oggi una prerogativa dei maschi. Ma soprattutto per questo i mille vincoli privati e pubblici con cui veniamo soffocate come ragazze e come donne ci dovrebbero rendere in massa bandite per la conquista della nostra libertà e della nostra dignità di essere donna. Le leggi, il diritto e l'ordine sono fondamentalmente contro di noi, anche se, combattendo duramente, abbiamo strappato due o tre diritti che comunque dobbiamo difendere continuando a lottare. La lotta radicale femminista e l'obbedienza alle leggi sono due cose che fanno a pugni tra di loro. Per chi non le conoscesse, due note: Rote Zora sono un gruppo femminista della Germania occidentale che è stato attivo più o meno dal 77 al 95 e che ha compiuto numerose azioni armate contro obiettivi di dominazione patriarcale. E il gruppo prende il nome proprio da un libro che si intitola Rote Zora e la sua banda, che racconta la storia di una ragazza dai capelli rossi, appunto, che guida una banda di orfani e ruba i ricchi per dare ai poveri. La prima azione delle Rote Zora è del 77 ed è stato un attentato agli uffici dei medici dell'associazione tedesca per protestare contro le leggi sull'aborto. E ancora nell'aprile del 2007, nonostante il gruppo avesse finito la sua attività appunto nel 95, una militante Rote Zora, nonostante appunto gli anni trascorsi, è stata processata e condannata per gli attentati all'Istituto Tecnico di Genetica di Berlino nel 1986. Eccoci di nuovo qua e di nuovo ciao a tutte, ciao a tutti. E la trasmissione di oggi l'abbiamo divisa più o meno in tre parti. Perché? perché ci interessava indagare le dimensioni e i livelli della repressione e del controllo, e quindi abbiamo indagato tre ambiti: l'ambito sociale individuale, il fronte interno e il fronte esterno. Abbiamo deciso di dividere la trasmissione in tre parti perché oggi abbiamo un po' di tempo in più, dato che la trasmissione dopo la nostra, la trasmissione di Elettrodo, prove tecniche di trasmissione, oggi non andrà in onda. Allora, la prima parte che abbiamo chiamato le nuove frontiere dello sfruttamento e dell'ipocrisia, stimolanti e tranquillanti, praticamente fa riferimento quindi alla repressione, al controllo e allo sfruttamento nell'ambito sociale individuale, che poi l'ambito sociale individuale non è mai veramente individuale, non è vero questo, però diciamo tanto per semplificare gli ambiti di indagine e anche per poter poi riportare a sintesi i tre livelli che abbiamo indagato. E quindi facciamo riferimento a due articoli che sono comparsi sulla stampa americana di recente proprio, e in particolare sul New York Times del 20 aprile 2015. Sono due articoli che sono comparsi praticamente in contemporanea e che raccontano due cose estremamente interessanti. Allora, il primo articolo è di Alan Schwartz ed è incentrato su un tema che è molto dibattuto, comunque che interessa moltissimo psicologi, medici e pedagoghi negli Stati Uniti, cioè i disturbi dell'attenzione. Una sindrome che si può descrivere sinteticamente come incapacità di concentrare l'attenzione sullo stesso soggetto per più di qualche secondo, e chiaramente appare legata all'intensificazione della stimolazione infosferica, al multitasking e alla riduzione dei tempi di esposizione dei dati al sistema occhio-cervello. Quindi non è nient'altro che la nostra modalità di vita e di lavoro, tradotto in parole poverissime, no? Allora, non so se vi ricordate che in passato il deficit di attenzione veniva segnalato soprattutto dai pediatri, diagnosticato nei ragazzini delle scuole elementari e medie, no? Non so se vi ricordate che c'era un farmaco che si chiamava Ritalin e che è stato somministrato ai ragazzini, soprattutto americani, ma poi è venuta anche qui da noi questa tendenza, seppure con una qualche resistenza che può essere giudicata in maniera soltanto positiva, che si dava appunto questo farmaco Ritalin ai ragazzini perché avevano deficit di attenzione. Ed è stato studiato e sono stati studiati gli effetti estremamente dannosi di questo di questa pratica, che portavano poi in età adolescenziale non solo a atteggiamenti psicotici e violenti, ma anche a moltissimi suicidi in età adolescenziale, no? Allora, questo farmaco che invece va per la maggiore adesso negli Stati Uniti e che risponde alle esigenze proprio della vita che ci hanno impostato, si chiama Adderall ed è un farmaco che spopola nella popolazione adulta americana, ma dicono che basta andare dal medico e dirgli che si fa fatica a tenere il ritmo del lavoro necessario per non essere licenziati e il medico prescrive le pillole. E praticamente l'Adderall è anfetamina ed exoanfetamina, praticamente stimola il sistema nervoso introducendo nel cervello agenti chimici che portano a un'iperattività e allo stesso tempo al controllo degli impulsi, no? Guarda caso i consumatori di Adderall sono soprattutto lavoratori cognitivi in età tra i 25 e i 45, quindi con questa estrema concorrenzialità, questa concorrenzialità spietata sul posto di lavoro, e poi oltretutto quelle che fanno le spese maggiori di questa situazione sono le donne, che hanno una necessità di dimostrare che sono addirittura molto più brave, che devono esporsi molto di più, che devono spremersi molto di più, e quindi sono delle grandi consumatrici di Adderall. Non solo, ma è venuta fuori nell'intervista che riporta questo articolo anche una cosa particolarmente interessante. Una certa Elisabeth, che viene intervistata, dice che comunque non se ne può più fare a meno, perché se qualcuno non prende l'Adderall è come giocare una partita con chi è doppato e quindi ha delle prestazioni estremamente più molto più grandi e quindi parte comunque svantaggiato. Quindi essere sani e mantenersi sani presuppone una posizione di svantaggio. Poi da parte delle donne penso che l'uso intensivo, diciamo massiccio, di questo tipo di farmaci sia dovuto sì da una parte a quello che dicevi tu, no? Di dover dimostrare di essere all'altezza, ma anzi superiore, perché chiaramente certo, a parità sceglieranno sempre un uomo, sceglieranno sempre un maschio, e poi anche perché comunque continua a sussistere un doppio, un triplo lavoro, no? A carico delle certo, donne, quindi giustificazione nel campo del lavoro. È il famoso multitasking che ci... che caratterizza proprio il lavoro al femminile, ed è visto che poi questo modello del multitasking è stato assunto però anche dal mondo del lavoro in maniera generalizzata, no? Quindi certo, ricade anche sugli impiegati uomini, sui lavoratori cognitivi, sì, uomini, eccetera. La femminilizzazione del lavoro è questo in effetti, no? Cioè trasferire le modalità che le donne hanno avuto nella gestione del quotidiano fino adesso, trasferirle nella gestione del quotidiano lavorativo e nel coinvolgimento nelle sorti dell'azienda, come la donna deve essere costantemente e totalmente coinvolta nelle sorti della famiglia, dei figli, della vita. E adesso anche del lavoro, quindi anche della anche società. Del lavoro. Allora, il secondo articolo invece è di sempre sul New York Times del 20 aprile 2015, è di Sam Quinones, perdonatemi la pronuncia, non so se è giusta. Il secondo articolo parla di eroina. Allora, e dice che la distribuzione dell'eroina è addirittura assolutamente normalizzata all'interno del ciclo economico americano. Perché? Perché mentre prima era una situazione di criminalità, cioè presupponeva un rapporto con la criminalità e comunque c'erano tutti dei risvolti a margine, no? Tutte persone che avevano una vita ai margini, e invece adesso no, c'è un sistema di distribuzione dell'eroina che somiglia a un qualsiasi servizio, a un qualsiasi ambito economico, a una qualsiasi situazione che può andare dal servizio a domicilio della cena, e così si chiama il fornitore di turno. Allora, lungi da noi dare un giudizio moralista su questo, perché il problema del consumo di queste sostanze è prima di tutto, almeno questo lo dico come posizione personale, non ha assolutamente, dovrebbe essere secondo me liberalizzato, perché nel momento in cui il controllo e la gestione, il controllo, il momento economico è nelle mani di grossi potentati economici ed è un vero e proprio business, e dall'altra parte è un grosso strumento di controllo sociale e di repressione. Quindi questi due livelli fanno molto comodo e vengono mantenuti per questo e viene criminalizzata per questo. Allo stesso tempo c'è un grande risvolto ipocrita, tant'è vero che noi abbiamo parlato di ipocrisia, le nuove frontiere dello sfruttamento e dell'ipocrisia. Perché? Perché dall'altra parte si condanna in maniera continua con servizi, con articoli sui media e sui media mainstream, eccetera, tutto il mondo, no? Il cosiddetto mondo della droga, quando si vuol dire che qualcuno era forse era drogato, gli è stato fatto il test della droga, compagnia bella, e sottacendo assolutamente quello che invece è il risvolto sociale di questa. Ci sono stati degli studi qualche anno fa che addirittura parlavano di gli operai che assumono coca per mantenere i ritmi di lavoro da una parte, che sono diventati sempre più pesanti, e allo stesso tempo mantenere anche il livello di input consumistico che viene mandato loro, perché un operaio giovane non si rifiuta di andare a letto con le galline alle 8 di sera come ci andavano i padri e i nonni, vorrebbe vivere, quindi vorrebbe vivere, è sfruttato e ipersfruttato, e quindi consuma, si impasticca tra virgolette, no? Quindi c'è questa ipocrisia di fondo, questo doppio binario, e questo articolo è esemplare. Perché? Perché dice che c'è quindi una modalità micidiale di affrontare, di sfruttare le persone, perché le si porta da una parte a intensificare la produttività e l'aggressività competitiva, e quindi ci vuole la cocaina e ci vogliono tutte le sostanze stimolanti che dicevamo prima, compreso l'Adderall. Dall'altra ci vuole l'eroina per ridurre gli stati d'ansia e per abbassare la tensione che tutto quello che è stato preso prima comporta.

Oggi per il movimento femminista è nodale riconoscere e organizzare le proprie ragioni. Oggi il neoliberismo e il patriarcato, così come si è realizzato in questa stagione, tende ad affermarsi come seconda natura e pertanto porta alla morte tutta la società, socializza la morte nelle relazioni sociali, sentimentali e affettive. Mai come oggi è importante come pratica storica, cosciente e organizzata quella della liberazione delle donne come conquista di una vita mai vissuta. Se non avessimo lottato in questi anni collettivamente e singolarmente, non avremmo la possibilità di leggere questo percorso, di affermare queste esigenze. Il movimento femminista è stato ed è un'allusione potente a un'altra vita, e la consapevolezza dei suoi limiti e del voluto stravolgimento da parte di alcune non rimuovono le sue potenzialità. Oggi è necessario aprire un dibattito nel movimento femminista per definire i percorsi di liberazione e le gambe su cui possono camminare, magari attraverso una rete soggettiva, coordinata e coerente, con la comprensione dei ruoli e della collocazione, rifiutando una sorellanza fittizia, falsa, formale e fuorviante, che passa attraverso la comprensione della collocazione all'interno del movimento femminista, dei ruoli che ognuna ha scelto di assolvere. Il movimento femminista in questo senso si misura con le contraddizioni prodotte dalla sua storia, ma perché questa non diventi ora e qui la storia del patriarcato, si deve riannodare ai bisogni del genere e alla sua aspettativa e al suo anelito di libertà. Ciao. We'll be right back. Allora, cominciamo con la seconda parte, che abbiamo intitolato Ordine pubblico e pubblica sicurezza, però siamo partite da, vabbè, da ben sì, altro. Dici, il discorso è talmente ampio, ampio, che effettivamente dobbiamo un attimo dargli una direzione più specifica. Ah, l'idea di questa parte di trasmissione nasce comunque dall'iniziativa che abbiamo fatto al 3 Serrande lunedì 25 con le compagnie Sapienza Clandestina. All'interno di quell'iniziativa abbiamo tentato di di ricostruire un filo rosso che fosse quello che portava dalla morte di Giorgiana Masi, dall'assassinio di Giorgiana Masi più precisamente, a quello che è il nostro ordinamento, l'ordinamento della pubblica sicurezza, e quello che riguarda soprattutto, poi questo è uscito molto in maniera molto forte da questa discussione, quello che riguarda invece il famoso stato d'emergenza, le leggi sull'emergenzialità. Ci siamo accorte, ovviamente, insomma, è un eufemismo dire accorte, abbiamo studiato insomma l'ordinamento dell'ordine pubblico, e ci siamo rese conto ovviamente che, ma anche parlando con i testimoni dell'epoca presenti quella giornata di piazza, quel 12 maggio del 77, che effettivamente in quel momento, in quel periodo, è scattato qualcosa di differente rispetto a quello che era la situazione e all'ordine pubblico rispetto alla situazione di piazza. Effettivamente questo era un nodo che ci ha fatto parlare molto, e quello che ci siamo rese conto, insomma, che abbiamo sottolineato in questa iniziativa, è stato proprio il fatto che riandandone indietro nel tempo, ma a parte dai primi emendamenti del 56 fino ad arrivare appunto alla legge reale del 75, ci siamo resi conto che da quel momento in poi, dal 75 in poi, queste leggi, diciamo, speciali sull'ordine pubblico hanno creato praticamente l'impianto che adesso viene definito stato d'emergenza, ma che in realtà è interno al nostro ordinamento. Quindi non ci sono differenze tra la normalità, tra virgolette, e l'emergenza, ma è semplicemente una gestione continua di quello che in realtà la repressione e lo Stato esercitano ovviamente su di noi. Per questo abbiamo registrato un collegamento con una compagna di Lecce, che aveva presentato la tua tesi sempre nell'ambito di Sapienza Clandestina, appunto, che avevamo fatto quella sul corpo, e questa appunto era sull'ordine pubblico e sulla... Ciao, benvenuta, e siamo molto contente di averti con noi, perché sappiamo che hai fatto un lavoro molto interessante su ordine pubblico e pubblica sicurezza, e siccome noi siamo particolarmente interessate, tanto per ripeterci, a questo argomento da un po' di tempo, anche da quando abbiamo fatto non solo da quando abbiamo fatto l'iniziativa su Giorgiana, ma da diverso tempo seguiamo il problema repressione, comunque come si è evoluto questo concetto, volevamo chiederti proprio se ci potevi parlare dell'evoluzione di questo concetto, della differenza fra ordine pubblico e pubblica sicurezza, dei rimandi reciproci e così via. Sì, ciao, innanzitutto ciao a tutte e tutti. Io appunto, come dicevi tu prima, mi sono occupata nella mia ricerca di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Chiaramente sono due concetti estremamente ampi, quindi io ho ridotto il campo della mia ricerca e me ne sono occupata relativamente al loro porsi come limite a singole libertà fondamentali, e anche al loro essere poi strumenti che in realtà sono volti esclusivamente alla conservazione di questo status quo, di questo sistema economico e politico. Mi spiego meglio. Anzitutto bisogna dire che ci sono due concezioni di ordine pubblico: l'ordine pubblico materiale e l'ordine pubblico ideale, che poi sono due concezioni che si sono chiaramente alternate nel tempo. Per ordine pubblico materiale intendiamo praticamente una sicurezza della società, della società, della tranquillità, dell'incolumità pubblica, e in teoria questa dovrebbe essere l'accezione predominante in uno stato che si dice democratico. Era anche l'accezione predominante, se vogliamo, nello stato liberale, almeno così si diceva. mentre l'ordine pubblico ideale vede diciamo come tutelabili dei valori come la religione, la proprietà, principi politici o morali ed economici che sono poi dominanti chiaramente in quel momento, e quindi in questo secondo caso l'ordine pubblico viene a coincidere con gli ordinamenti economico-politici costituiti, e quindi ed è questa chiaramente un'espressione di ordine pubblico che domina nei totalitarismi, nei totalitari, e che dominava chiaramente nello stato fascista. E quindi uno si immagina che una volta che in Costituzione, con l'avvento della Costituzione, si sanciscono tante belle cose come la libertà inviolabile, come la inviolabilità della libertà personale e che ne so, la determinatezza del diritto penale, la persona posta al centro di tutto, la sua libertà personale, appunto, ripeto, posta al centro di qualsiasi cosa, si pensa che l'interesse preminente dello Stato dovrebbe in qualche modo venir meno su determinati punti, e quindi adottare quantomeno appunto una concezione materiale dell'ordine pubblico. E invece così non è stato assolutamente, anche perché piccola precisazione, in Costituzione non si fa mai menzione dell'ordine pubblico, non viene proprio mai minimamente nominato, si parla di motivi di sanità, di sicurezza, di incolumità pubblica, ma non si parla mai né di pubblica sicurezza né di ordine pubblico proprio esplicitamente, in modo esplicito. Cosa che invece veniva fatto con il fascismo, è stato fatto per la prima volta quando sono state introdotte le misure di sicurezza nel 1931, si parlò apertamente di ordine pubblico e si sancì appunto in quel caso testualmente che si adottava la concezione ideale dell'ordine pubblico, non in questi termini, però insomma si spiegava che cosa doveva intendersi per ordine pubblico. Ora, quindi dicevo, non viene precisato in Costituzione quale sia l'accezione di ordine pubblico dominante. E questo sembrerebbe una garanzia, in realtà lo è, non lo è una garanzia, perché questo ha fatto sì che in situazioni di crisi poi chiaramente si è prevalsa una concezione, un'accezione ideale dell'ordine pubblico. E quindi che cosa vuol dire? Che praticamente nel nostro paese facendo in questo modo è stato possibile limitare le libertà fondamentali come quella personale in particolare, anche semplicemente in virtù di supposte lesioni di principi come appunto la religione, la proprietà, posti alla base del vigente sistema economico e politico, ed è questo quello che è avvenuto. Quindi che cosa è accaduto? Che in situazioni di crisi politica, sociale, economica, a partire dagli anni 70 è ritornata proprio prepotentemente questa concezione, che ha fatto sì che quelle cose sancite in Costituzione non fossero minimamente poi rese vere. È chiaro che io non difendo in astratta tratta quello che è stabilito in Costituzione, anche se si fosse questo è stato possibile perché evidentemente si è voluto così nel nostro dettato, nel nostro testo costituzionale è prevista questa possibilità, è previsto che ci sia una deroga alla Costituzione, altrimenti sarebbe stato sancito chiaramente che ci sono delle cose che non sarebbe previsto qualche rimedio, una possibilità, un rimedio a questa facilità con cui si può utilizzare l'ordine pubblico limitando le libertà personali in maniera così dirompente. Si pensi che con gli anni 70, voglio dire, si limita appunto il caso di Giorgio Amati, è l'esempio più uno degli esempi più tristi, ma appunto la polizia ha potuto usare legittimamente le armi in una miriade di casi, tant'è che ci fu una vera e propria strage. Mi sembra che il numero di morti in seguito alla legge reale fu di 215 240 anni, una cosa esorbitante. Ed è chiaro che questa cosa si è cristallizzata nel tempo, e cioè che nelle situazioni di crisi si riespande questa concezione di ordine pubblico e si fa sì che grazie ad esso si possa limitare si possa limitare la libertà personale, quindi nella nostra particolare situazione di crisi, che è diversa ovviamente da quella degli anni 70, che cosa è successo? Che lo Stato non è più in grado economicamente, con stati al capitalismo avanzato non riescono più a garantire la nostra sicurezza, o meglio la sicurezza dei nostri diritti, cioè non riescono più a garantirci un'istruzione, una sanità, un lavoro, una vita dignitosa, quella che viene chiamata così in Costituzione, non ce la riescono più a dare questa vita dignitosa, e quindi per supplire a questo hanno creato una nuova emergenza, quella dei nostri giorni, che è quella della sicurezza, e quindi passano, c'è stata un'inversione lessicale, dalla sicurezza dei diritti, che in teoria è quella che nel famoso contratto sociale dovrebbe essere dovrebbe essere garantita, si passa appunto da questa sicurezza dei diritti al diritto alla sicurezza, che è un'invenzione vera e propria, non lo dico io, lo dicono non lo dicono neanche solo compagni, lo dicono penalisti che appunto compagni assolutamente non sono, che è un'invenzione falsa ed ideologica, perché è volta a tutelare soltanto i gangli essenziali del potere. Questo diritto alla sicurezza, perché punta appunto a marginalizzare e a criminalizzare tutte quelle fasce di popolazione che o ritiene più pericolose per l'ordine pubblico, come appunto i movimenti si vede in Notav, o dei movimenti di lotta in generale, oppure sono quelli più facili da additare come nemico pubblico, e penso ai migranti, e proprio a questo proposito io ultimamente mi sono occupata della legge sulle misure antiterrorismo, del decreto legge che è stato varato in seguito all'attacco del Charlie Hebdo. E là mi sono resa conto di diverse cose che prima francamente non ero andata a guardare, eccetera. E anzitutto io pensavo, leggendo questo decreto, dovendo studiare questo decreto legge, pensavo, oddio, sono pronta a tutto, al peggio, chissà che cosa si sono inventati. E sì, invece è vero sicuramente che che ci sono delle cose molto gravi che sono state introdotte con questo decreto legge, però è anche vero ci sono che già tutti gli strumenti erano già stati predisposti con altri decreti legge passati in sordina, o per esempio con l'articolo 270-sexies del codice penale, che quello che stabilisce quali siano i reati con finalità di terrorismo, che permette un'accezione proprio a maglie larghissime del terrorismo. Che riprende la concezione ideale di ordine pubblico di cui sopra. Infatti, scusami se ti interrompo su questo punto. Sì, sì. Da questo punto di vista, questo articolo, diciamo, da quando è stato introdotto questa definizione di terrorismo, riesce ad assorbire in sé, quindi a racchiudere anche quello che prima invece era definita una finalità eversiva, no? Per cui le associazioni erano definite eversive, e quindi tramite il termine eversivo si doveva per forza andare anche a sindacare la natura del regime costituito che si andava a voler sovvertire, no? Invece tramite terrorismo, e quindi diciamo marginalizzando completamente la possibilità di applicare invece la formula di associazione eversiva, si toglie di mezzo anche il giudizio e quindi la questione sulla natura di del regime che quegli atti mettono in pericolo, no? Sì, sì, si toglie proprio la natura più politica del termine. Infatti è interessante vedere che la dicitura del decreto legge di oggi, cioè quello del 2015, parla di terrorismo anche internazionale. Quindi toglie l'eversione, parla di e schiaccia sul termine terrorismo anche, fa diventare terroristi anche gli esponenti di lotte sociali del territorio, che non sono sicuramente fondamentalisti islamici. Questo per esempio a livello... Questo per esempio a livello internazionale, dico, no? Era già avvenuto più o meno dopo l'attacco delle Torri Gemelle, dopo con tutti i patti però rispetto in quel frangente, in quell'ambito, cioè l'ambito del diritto internazionale, alla sostituzione, cioè alla riconduzione dei movimenti di liberazione nazionale nell'alveo invece dei movimenti terroristici, no? Mentre prima erano tenuti ben separati, perché invece il diritto internazionale, diciamo che escludeva da tutta una serie di sanzioni l'uso della violenza a scopi politici in qualche modo, no? Cioè per difendersi. Sì, chiaramente dopo l'11 settembre del 2001 ci si è schiacciati man mano tutti su quello che poi hanno iniziato gli Stati Uniti. Noi di rimando stiamo recependo un sacco di una politica che lì era già che lì era già sperimentata, attuata e chiaramente fallimentare, però noi e tutti i paesi occidentali ci stiamo schiacciando su quelle scelte anche appunto anche lessicali, non soltanto politiche o penali o processual penali. E quindi dicevo ci sono tante cose, tante novità che hanno, cioè, no, meglio, ci sono delle novità che ha introdotto questo decreto legge, in particolare non lo so, mi rivolgo a chi studia diritto come me, in particolare già è strano che con un è poco democratico, diciamo così, che con un decreto legge vengano introdotte nuove fattispecie penali e viene incriminato, viene introdotto il reato di arruolamento, cosa che prima non esisteva, e viene introdotto anche il reato di cioè addirittura di non di istigazione ma di propaganda di viaggi finalizzati alle attività terroristiche. E tra l'altro una piccola curiosità, prima degli emendamenti non veniva specificato che questi viaggi finalizzati alle attività terroristiche dovevano essere viaggi all'estero. Quindi cosa che poteva accadere? Che se io organizzavo un viaggio in pullman in Valsusa per una passeggiata, potevo essere incriminato di questo nuovo reato. Poi è stato con gli emendamenti è stato specificato che questi viaggi sono viaggi all'estero, quindi questa particolare ipotesi non ci sarà, però è chiaro che ognuno faccia le sue conclusioni. È chiaro che altre circostanze potranno tranquillamente essere considerate con finalità terroristiche e quindi subire anche questa ulteriore repressione. E poi un'altra cosa che a mio avviso è molto interessante, non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista politico, è che la Procura Nazionale Antimafia con questo decreto legge diventa proprio lessicalmente Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E quindi questo cosa vuol dire? Questa è una chiara scelta politica che non si cura minimamente, no, di affrontare le cose, i fenomeni criminali da un punto di vista sociale, ma semplicemente da un punto di vista repressivo, perché accomuna due fenomeni che fra di loro non hanno niente a che fare. Il terrorismo nazionale, internazionale, l'eversione, non hanno niente a che fare con la mafia, diciamo, sono due fenomeni completamente diversi, soprattutto se parliamo di questo particolare terrorismo islamico, sono due fenomeni che non dovrebbero essere trattati con mezzi differenti, e questo permette tra l'altro una facilità per le procure, una via preferenziale, queste sono le conseguenze giuridiche non politiche, che insomma lascia il segno. E poi un'altra curiosità che tra le cose insomma, più interessanti, se non vorrei dilungarmi eccessivamente, un'altra curiosità di questo decreto legge è che, vabbè, chiaramente, ma neanche a dirlo, voglio dire, potete già immaginarlo voi, vengono aumentati in maniera esponenziale il numero di militari per strada, sempre continuando l'operazione strade sicure che era iniziata col pacchetto sicurezza del 2008-2009. E vengono incrementate soprattutto per le dice proprio così il decreto legge, il testo del decreto legge, per le particolari esigenze di pubblica sicurezza inerenti ad Expo 2015, incrementiamo ulteriormente il numero di militari presenti sul territorio. E la cosa interessante, ripeto, perché questa voglio dire, purtroppo siamo tristemente abituati a questo, la cosa interessante è che come cioè questi militari vengono pagati con i soldi vengono presi dal Fondo Nazionale per l'asilo, per i rifugiati e per l'asilo. Quindi nella relazione a questo decreto legge viene detto, chiaramente è una buffonata, però facciamo finta di crederci, viene detto che queste misure sono prese per favorire l'integrazione, non per discriminare, eccetera eccetera. E poi tu, proprio per favorire l'integrazione, che cosa, qual è la conclusione a cui giungi? Che devi militarizzare ulteriormente il paese, e che i soldi per militarizzarlo li prendi dal Fondo Nazionale per le politiche dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Cioè, è proprio una contraddizione in termini, ma queste sono appunto piccolette a cui siamo abituati. E poi un'altra cosa interessante, a mio avviso, di questo decreto legge è che viene prevista un'aggravante per chi commette i reati di istigazione a delinquere, istigazione a commettere reati con finalità di terrorismo, se appunto l'aggravante è per i reati commessi in via telematica o informatica. Quindi se io scrivo sul sito che è giusto, non lo so, tirare un San Pietrino al Parlamento, visto che questo, date le maglie larghe dell'articolo 270 sexist di cui parlavamo prima, può essere considerato, secondo un'accezione molto ampia di questo del reato, può essere considerato istigazione a un reato aventi finalità terroristiche, cioè subisco anche l'aggravante fino ai 2/3 della pena, quindi posso aumentare fino ai 2/3 la pena se lo scrivo su internet. Cioè, qua sui reati proprio di istigazione, di apologia, eccetera, è proprio palese l'operare di questo, di quello che, di cui parlavamo prima, no? Dell'ordine pubblico ideale, nel senso che un reato di opinione, come vengono chiamati, cioè è una contraddizione in termini che riesca concretamente e materialmente a mettere in pericolo, no? La sicurezza pubblica, sì, intesa nella sua accezione materiale, no? E invece viene rivitalizzato l'aspetto appunto proprio di reato d'opinione, no? Ma possiamo dire che diciamo che la borghesia è arrivata a uno stadio tale da disattendere i principi da cui era partita? Sì, esattamente così. È esattamente così, per mantenere, ma questo me lo dico, cioè la cosa assurda è che non lo dico io da compagna o altri compagni e basta, lo dicono penalisti che, giuro, non sono compagni, e dicono, c'è scritto nero su bianco su moltissimi siti e su moltissimi manuali, che la democrazia, per poter salvaguardare se stessa, ha dovuto derogare e sospendere i principi base dalle quali era nata, sulle quali si fonda, le libertà fondamentali che hanno costituito la pietra miliare delle democrazie, sulle quali si sono fondati i nostri stati, e quindi per permettersi a questo sistema economico e anche a questo sistema politico di la sopravvivenza, perché si è permesso a questa la sopravvivenza, si deroga ai principi fondamentali che ne hanno costituito la base. Beh, d'altra parte, come dicevi prima, lo accennavi per insomma i giuristi che ascoltano, dicevi è già in una contraddizione, insomma incostituzionale che vengano introdotti delle nuove figure di reato attraverso un decreto legge. Per spiegare in cosa sta questa incostituzionalità, è nel fatto che appunto in materia penale vige un principio di riserva di legge, nel senso che soltanto il Parlamento, in quanto organo rappresentativo dell'intero popolo, no? In questo quindi depositario, unico depositario del potere normativo, può introdurre, no? È una funzione garantista questa, di fare introdurre soltanto al Parlamento. D'altra parte, quindi, diciamo, gli organi democratici, come li possiamo chiamare, insomma, stanno rinunciando anche a un principio fondante, anche questo, della democrazia liberale, della separazione dei poteri, ma non soltanto in materia penale questo, no? E comunque, viste come si stanno mettendo in fatto le cose, sappiamo perfettamente che se non è più una garanzia che una certa legge la emani il Parlamento o il governo, perché la contiguità tra questi organi ormai è talmente stretta da risultare praticamente impossibile distinguerli, no? Sì, sostanzialmente è così, poi formalmente diciamo ci dovrebbe essere, almeno chiaro che tra di noi possiamo dirci che è così, però se i penalisti e i costituzionalisti di cui sopra, quelli che non sono compagni o che non hanno una particolare sensibilità di questo genere, probabilmente se venissero rispettate determinate formalità non griderebbero allo scandalo, però appunto sono così forti di questa conseguenzialità tra Parlamento e Governo eccetera che si possono permettere anche di venir meno a non soltanto a la sostanza, ma anche, non soltanto nella sostanza ma anche nella forma, certo. Determinate. Beh sì, questo in parte è sicuramente un salto qualitativo, no? Nel senso appunto cioè più che altro è indice di una quasi di una stabilizzazione, di una trasformazione che si è compiuta negli anni, no? Per cui adesso noi appunto siamo proprio nell'epoca della menzogna ormai palese, non c'è più bisogno di dover leggere tra le righe per vedere quello che sta succedendo, te lo sbattono proprio in faccia che restringono a piesso spinto praticamente tutte le garanzie costituzionali, democratiche, dei diritti, soprattutto di libertà. E questo sì, è sicuramente. Sì, ripeto, la cosa a mio avviso cioè, più lampante è che lo facciano in virtù di questo falso diritto alla sicurezza. Cioè, e tra l'altro la cosa preoccupante è che la gente magari non so, poco attenta o non so come definirli, loro stessi dicono sì vabbè mi limitano il mio diritto alla privacy, limitano la mia libertà, ma è in virtù della mia sicurezza del contro questi attentatori pericolosissimi eccetera. No, non è così, non è assolutamente così, non si può rinunciare a dei pezzi fondamentali della propria vita privata e pubblica in virtù di favolette, perché non ci raccontano favolette e soprattutto non è neanche come devo dire non sono strumenti che volti a in realtà se li si va a leggere precisamente non sono strumenti volti alla sicurezza di niente e di nessuno, certo. Sono semplicemente provvedimenti muscolari, cioè volti a far vedere la forza di uno Stato, la tenuta delle sue istituzioni davanti agli occhi delle masse, a far credere che sia uno Stato che si regge in piedi e che è forte, stabile, che non può essere attaccato da nessuno, e quindi viene affermato ancora di più quello che già si era profilato negli anni 70, cioè il diritto penale simbolico. Io simboleggio la mia tenuta e in realtà reprimo le categorie che più mi stanno antipatiche o che è più facile additare come pericolose. Sì, da questo punto di vista mi sembra centrale quello che dicevi prima, nel senso che da questo discorso emerge proprio che siamo di fronte praticamente a un nuovo patto sociale che invece che fondarsi sulla sicurezza dei diritti si fonda su questo diritto alla sicurezza, sì. No? E quindi questa mi sembra, sì, un'inversione veramente centrale, no? Che forse riesce anche a far ad esprimere all'esterno, diciamo, degli ambienti che già sono consapevoli di quanto sta avvenendo e già cercano di mettere in piedi un antagonismo in varie forme. Ecco, questo concetto qua, questa inversione forse è anche utile invece ad esprimerla all'esterno, no? Sì, effettivamente quando io mi sono trovata a leggere, a studiare questo particolare aspetto della materia che poi su cui poi ho dovuto scrivere la tesi, per me è stato molto è stato fondamentale e illuminante questo passaggio, perché effettivamente rende veramente molto, molto chiaro a tutti, non soltanto a chi è pratico di questa materia, ma veramente a tutti il passaggio politico e giuridico che è avvenuto. In cui non si è più in grado di garantire la sicurezza dei diritti, ci si inventa un diritto alla sicurezza, di modo che stringendo sempre più il cerchio, no, si esclude qualcuno dal patto sociale, le categorie che abbiamo deciso che hanno deciso di marginalizzare e di criminalizzare, e così è chiaro che stringendo sempre di più i diritti a quei quattro che sono rimasti li posso garantire, e a tutti gli altri che non li posso più garantire, e quindi istigo l'odio tra gli uni e gli altri, di modo che quelli che verranno additati come nemici saranno realmente marginalizzate e criminalizzate, e quindi lo Stato a livello economico e politico potrà mantenersi e rinsaldarsi. In realtà è quello che un buon laboratorio, cioè forse un banco di prova di questo nuovo paradigma è stato anche l'Aquila, no? La gestione dell'emergenza dell'Aquila, nel senso che proprio lì dove si doveva ricostruire, quindi in parte anche rifondare una città, rifondare una parte di società che era stata completamente destabilizzata da un terremoto, si è rifondato sulla militarizzazione, sui deliri appunto securitari, e mi sembra insomma che quanta diritti non ne stiano assicurando da nessun punto di vista. Dicevo proprio di no, diciamo che i diritti mancano, tutto il resto c'è, mancano i diritti. Mancano all'appello, va bene. Diciamo, forse nella lotta politica non è rivendicazione di diritti, no? È proprio un'opposizione frontale di una legittimità verso appunto una legalità completamente asservita, chiaramente non è mai neutrale. E va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, è stata una chiacchierata davvero esauriente e proficua, e magari insomma ci saranno anche occasioni per ritornare sul tema. Intanto davvero grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ciao. Un bacione, a tutte. Ciao. Ciao ciao. Dopo questa corrispondenza ritorniamo in diretta, e volevamo chiudere questo approfondimento appunto sui temi della repressione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza con alcune riflessioni, in parte suscitate dalla corrispondenza che abbiamo appena ascoltato e in parte invece sono venute fuori anche dalla iniziativa appunto che prima raccontavamo, che si è svolta su Giorgiana Masi. Un primo appunto che mi è venuto in mente sentendo appunto la corrispondenza con la compagna è stata appunto lei fa a un certo punto giustamente sorride sul fatto che adesso mafia e terrorismo vengano proprio legate a stretto giro, cosa che in realtà però era già successa. Ed effettivamente rispetto a tutta la questione dell'emergenzialità, dello stato d'eccezione eccetera, in realtà nell'ordinamento italiano tutto questo filone dell'emergenza ha riguardato molto nello specifico tutto la categoria di mafia e di mafiosi. Basta pensare a tutto quello che era Mani Pulite, il pentitismo eccetera eccetera, cioè nel senso rispetto a quello sono state varate comunque dei decreti legge, degli emendamenti che erano specifici ovviamente per la questione mafiosa, no? Però effettivamente si è creato quello che è lo stato d'emergenza anche attraverso, se volete, anche l'immaginario, no? Come succede adesso col mainstream. Ovviamente si parla degli anni 90, quindi era tutto un po' più lento e passava ovviamente solo per la televisione e per la radio. Però se vi ricordate c'è stato tutto un filone antimafia di polizieschi, film, telefilm, cioè nel senso si è lavorato molto su questo immaginario, no, del poliziotto antimafia che effettivamente era differente, no, rispetto al resto. Quindi in realtà anche su quell'argomento, oltre che sul terrorismo, si è lavorato parecchio da parte del potere, no, dalla nostra, per creare invece un immaginario che fosse securitario, legalitario, garantista e che non fosse effettivamente, anche se pensiamo poi alla figura, che ne so, di Peppino in passato, no? Cioè è stato rivalutato da poco, ancora è una figura di cui pochi ne sanno, semplicemente perché hanno fatto un film e quindi è diventato un po' famoso per quello, perché se no fondamentalmente rimaneva nella nicchia. E il problema della mafia, ovviamente un problema gigantesco, non si affronta dal punto di vista, no, della lettura di classe, cosa che invece lo è, e lo stesso vale per la questione del terrorismo. Con le leggi e con lo stato d'emergenza in realtà ci fanno passare che fondamentalmente ci proteggono, quando non è così. E invece le riflessioni che erano uscite fuori già durante l'iniziativa di Giorgiana Masi, che poi in parte sono confermate da quello che diceva appunto la compagna durante la corrispondenza, è che abbiamo appunto cercato di ricostruire non solo il filo rosso che lega l'assassinio di Giorgiana all'oggi e quindi quali sono le linee di continuità e di discontinuità, ma anche un po' i motivi che rendono la figura di Giorgiana Masi così presente nel nostro immaginario, nel senso che è una compagna di cui tutti si ricordano e che appunto di cui non si è fortunatamente persa memoria. E questi motivi li abbiamo rinvenuti fondamentalmente, cioè questi motivi e le linee di continuità le abbiamo rinvenute in due ordini di considerazione. Cioè, da una parte appunto che quello, il contesto di legislazione d'emergenza speciale eccetera che ha caratterizzato quegli anni e quindi anche l'assassinio di Giorgiana è direttamente, cioè come se non avesse subito delle interruzioni, c'è cioè una continuità di questo impianto repressivo da quegli anni ad oggi, ed è appunto confermato anche da questo nuovo decreto del terrorismo, perché come diceva la compagna prima non c'è stato bisogno di introdurre grandi novità tramite questo nuovo decreto, perché fondamentalmente gli strumenti erano già presenti e sono già presenti nell'ordinamento, sono state introdotte nuove figure di reato eccetera, ma l'impianto era sempre presente, no? E quello in realtà che si continua a fare, come in realtà già la legislazione d'emergenza degli anni 70 faceva, è questa depoliticizzazione del conflitto, solo che adesso attraverso lo strumento del terrorismo è ancora più visibile, ancora più operante, proprio il trascinamento di qualsiasi lotta sociale, di qualsiasi conflitto antagonista che ha un colore invece marcatamente politico sul terreno della criminalità e oggi appunto del terrorismo. Cioè un tempo si diceva era criminalità organizzata, no? Quindi un'associazione sovversiva diventava associazione per delinquere, adesso un'associazione eversiva o sovversiva diventa associazione terroristica. Il filo rosso però appunto è questo, no? La neutralizzazione del conflitto politico e il riportare le lotte sociali attraverso lo strumento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza entro appunto un terreno di criminalità. E l'altra considerazione invece è che l'omicidio di Giorgiana è così simbolico anche perché effettivamente quella era una manifestazione indetta dai radicali in un momento in cui invece i movimenti erano molto molto forti, e i movimenti organizzati di classe, rivoluzionari. Quella invece era una manifestazione indetta dai radicali, e Giorgiana è la figura proprio un po' del manifestante, non del militante, e quindi di un momento in cui la repressione si è abbattuta e è stata uccisa non in virtù di un atto portato avanti, ma in realtà forse di un clima, no? E questo ci ha fatto ragionare sul fatto che effettivamente non c'è una diretta conseguenza tra modalità della lotta e repressione, nel senso che non è la modalità, cioè come io scendo in piazza, gli strumenti che utilizzo, l'aggressività che porto o meno nelle lotte a determinare l'avvio della macchina repressiva, ma effettivamente evidentemente è qualcos'altro, e noi durante l'iniziativa l'abbiamo rinvenuto in quest'altro criterio, cioè la repressione si abbatte quando si trova davanti a dei movimenti che hanno effettivamente un progetto, che quindi sprigionano che hanno alle spalle una ricomposizione di classe, che hanno un progetto di classe, e non quindi semplicemente perché ci sono degli exploit di più o meno violenza. E su questo ragionavamo anche perché da questo si comprende perfettamente, è palese quanto il dibattito su violenza o non violenza sia fuorviante, perché appunto non è la repressione, non si attiva perché io metto in campo delle modalità violente oppure non violente, è quello che vorrebbero farci credere, ma in realtà chiaramente questo non è il collegamento. Chiaramente, per esempio, le soggettività che possono essere portatrici di portato rivoluzionario di classe in nuce non necessariamente sono quelle classiche della tradizione marxista, ma possono essere anche altre. Una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente superando obstáculos, aunque me abrace el enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, menos, pero vengo bien armada con mi ejército de rimas. Donde sea, expresando voy representando mi odisea. Menea, que te menea, la marea me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido, porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba, sin lugar a dudas, siempre va a quedar afuera. Hardcore, este planeta lo que necesitas, amor. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor que hacia la eternidad. Allora, siamo di nuovo in diretta e apriamo la terza parte che abbiamo intitolato Fuori l'Italia dalla NATO. Allora, riepiloghiamo un attimo il filo che lega le tre parti di questa trasmissione, altrimenti magari ce lo perdiamo, no? Allora, noi volevamo indagare i livelli di repressione e di controllo, e siamo partite dall'ambito individuale, che poi è anche un ambito sociale, e quindi parlando dei stimolanti, tranquillanti, di tutto questo ambito di sfruttamento neoliberista in particolare. E poi siamo passati invece al fronte interno, parlando dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Ora passiamo al fronte esterno e parliamo di quello che è lo strumento principe di aggressione, di controllo e di polizia dei paesi occidentali nei riguardi dei paesi del terzo mondo, dei paesi aggrediti, dell'imperialismo comunque, possiamo generalizzare e semplificare in questo modo, che però poi si riflette pesantemente anche su di noi sul fronte interno, e vedremo perché e per come. Parleremo di NATO, avremo un collegamento, vediamo se riusciamo a farlo, perché ci siamo accorti che ci sono delle difficoltà, però intanto introduciamo l'argomento, no? Allora, la NATO, l'organizzazione del Trattato Atlantico dell'Atlantico del Nord, è un'organizzazione internazionale che è nata nel 49, diciamo così, semplificando, per la collaborazione nella difesa. Attualmente fanno parte della NATO 28 stati al mondo, ma l'esigenza, quando è nata, era quella di allearsi e di mettere insieme i propri dispositivi di difesa, quindi per reagire ad un eventuale attacco. E chiaramente questo, diciamo, dispositivo di difesa collettiva è cambiato moltissimo nel tempo, perché da un'esigenza che poteva essere quella del clima della guerra fredda, dalla caduta del muro di Berlino sono cambiate tantissime cose, ma non soltanto, cioè il ruolo della NATO è cambiato, ma è cambiato in relazione ha una scelta che è quella imperialista, neoliberista, che ha assunto il capitale e che quindi è in funzione di questa ha dato anche alla NATO una configurazione e degli strumenti particolari, perché deve rispondere a delle esigenze del tutto diverse. Non è più un problema difensivo, ma è ben altro. L'exploit della nuova configurazione della NATO avviene nel 99, no? Vede il suo primo impiego militare durante la guerra del Kosovo. Non ho idea, io sbaglio sempre. Ucraina, Kosovo, vabbè. No, ed è una operazione di aggressione vera e propria. Diciamo che è un cambiamento epocale. Perché? Perché la NATO si trasforma appunto da strumento difensivo a vera e propria polizia internazionale. Ma se vogliamo, cambiamento parallelo a questo c'è stato anche invece nell'altra organizzazione internazionale, cioè nelle Nazioni Unite. Certo. Perché i caschi blu, i famosi caschi blu, nascono come operazioni cosiddette di peacekeeping, cioè dopo sempre un intervento militare di aggressione, perché secondo noi è così, però diciamo dopo una guerra in un paese eccetera, arrivano i caschi blu a mantenere una pace ritrovata e ad assicurare lo svolgimento regolare delle elezioni eccetera eccetera. A un certo punto però queste operazioni di peacekeeping si trasformano e diventano di peace building, e questo appunto più o meno 10 anni dopo la prima guerra del Golfo, no? Quindi certo. Con la trasformazione insomma del mondo da insomma che diventa unico fondamentalmente a guida americana, e quindi questo cambiamento interessa anche l'altra organizzazione internazionale, perché le operazioni di peace building a quel punto legittimano il ricorso a tutta una serie di misure che sono anche di forza militare, che prima invece appunto non erano legittimate. Certo, per esempio già nel 2003 la NATO accetta di prendere il comando dell'ISAF, no? Che è dell'International Security Assistance Force, che è in Afghanistan, no? Dopodiché per esempio attraverso tutta una serie di fasi arriva fino alla situazione che si è venuta a creare in Libia, cioè all'aggressione della Libia e l'ultima destabilizzazione totale di un paese sovrano è avvenuta con la Libia. E quindi ormai è eclatante che il nuovo ruolo della NATO è quello di esportare la politica imperiale e essere la forza militare di questa politica imperiale. Diciamo che rispetto a questo noi abbiamo anche dei risvolti, chiamiamolo sul fronte interno, perché sappiamo benissimo che oltre a questa funzione specifica della NATO nei paesi diciamo del terzo mondo, in tutto il Medio Oriente, dalla Jugoslavia poi all'Afghanistan, all'Iraq e a tutta la situazione medio orientale, ha dei risvolti importanti anche sul fronte interno, perché la NATO è quella che ha l'organizzatrice e quella che ha fatto la stesura del famoso Urban Operation in the Year 2020, che è un protocollo che riguarda non i paesi del terzo mondo e non le aggressioni internazionali, bensì i paesi occidentali. Uncle Sam ain't no woman. Operazione terrestre o operazione urbana UO 2020 all'orizzonte dell'anno 2020 esaminava la natura probabile dei campi di battaglia, i tipi di forze terrestri, le loro caratteristiche e capacità. Il rapporto Urban Operations in the Year 2020 era redatto dall'RTO, L'RTO, l'Organizzazione per la Ricerca e la Tecnologia della NATO, è il centro di convergenza delle attività di ricerche tecnologiche per la difesa in seno alla NATO. Riportiamo virgolettato dal testo: lo spazio di battaglia dell'anno 2020 sarà variabile in densità, non lineare e più disperso. Sarà di natura cellulare, multidirezionale e sempre più determinato da elementi aerei e spaziali che si trovano al di sopra del campo di battaglia. L'ambiente urbano sarà l'ambiente di conflitto più difficile, ma allo stesso tempo il più probabile. Questo dice, e in un contesto così delineato, si sottolinea la centralità di una razionalizzazione dell'interoperabilità delle forze NATO, dato anche l'allargamento seguito al crollo del patto di Varsavia e, in particolare, da un punto di vista strettamente operativo, si caldeggia il dominio sull'informazione, una maggiore capacità tecnologico-militare e una ottimizzazione della logistica. Alcune branche tecnologiche sono considerate di importanza cruciale ed elenca testualmente: le tecnologie elettriche ad alta potenza, le armi ad energia diretta, le tecnologie informatiche, le tecnologie delle le comunicazioni, le tecnologie per la guerra elettronica e dell'informazione, i dispositivi elettronici, la biotecnologia, le tecnologie delle strutture e dei materiali, i fattori umani e le interfacce uomo-macchina, le tecnologie d'attacco di precisione, l'automatizzazione e la robotica. L'interesse degli esperti NATO verso gli scenari urbani non è affatto casuale. È messa in preventivo la rivolta nei paesi occidentali e, dato che le aree metropolitane continuano a crescere senza posa e a catalizzare la conflittualità sociale e politica, i contingenti militari impegnati nelle missioni NATO si trovano sempre più spesso a dover operare in ambienti urbani dove vengono a cadere gli elementi tattico-strategici che erano tipici dei grandi conflitti bellici del Novecento. Inoltre, la complessità umana e sociale degli scenari urbani, nell'ottica di una salvaguardia spettacolare di quelli che sono i miti democratici fondativi di un organismo come la NATO, aumenta la problematicità degli interventi e rende necessaria una versatilità tattica contro i punti critici del nemico. Pronto? Pronto, sì. Ah, pronto, bene, sì. Ciao. Allora, ciao. Siamo in diretta con Marinella Correggia. Ciao, ci fa piacere riaverti ciao. Qui tra noi e a discutere ancora una volta. E, noi finora abbiamo un attimo introdotto il discorso qui in trasmissione sul ruolo della NATO. Abbiamo detto quali sono, qual è stata la creazione della NATO e come però nel tempo questo ruolo si è modificato. E quello che è adesso il ruolo della NATO è estremamente pericoloso sia per noi paesi occidentali sia per i paesi del terzo mondo, e di questo che volevamo parlare con te. Sì, anche se a dirla tutta la NATO ha un po' un vizio d'origine, perché nasce prima del patto di Varsavia, quindi neanche tanto in funzione difensiva, diciamo che ha un po' un vizio di fabbrica, no? Certo. Che molti tendono a dimenticare. Del resto ci fu negli anni 50 un economista gandhiano socialista indiano, Kumarappa, che già proprio all'inizio, nei primi anni della NATO, disse: vedrete, ne vedremo delle belle, la NATO farà un sacco di guerre e aiuterà l'ONU a essere invece che una forza, cioè che invece che un'organizzazione per la pace, un'organizzazione di dominio internazionale, e aveva visto giusto. Sì, se vogliamo andare alle origini. No, hai fatto bene, perché in effetti, a parte il fatto che le motivazioni con cui loro sono nati e gli articoli che su cui hanno sproloquiato lasciano il tempo che trovano, no? Il fatto che loro abbiano detto di essere una struttura che è impostata per reagire soltanto ad attacchi e come dispositivo di difesa, è chiaro che questo è una loro definizione che può anche essere vagamente di parte, no? Sì. Ecco, comunque, nel tempo si sono svelati e adesso è tutto molto chiaro. Diciamo è che noi abbiamo individuato il punto di passaggio nel 99, cioè sì, nell'aggressione alla Jugoslavia. Decisamente. Del resto l'aggressione alla Jugoslavia viene appunto seguita di pochi giorni dall'incontro nel quale appunto si decide il nuovo concetto strategico della NATO, e il concetto per cui si supera la funzione appunto, diciamo, formalmente difensiva, e si sostiene che qualunque interesse abbiano, anche appunto quindi interessi economici e quant'altro e geostrategici abbiano i membri della NATO, questi hanno il diritto di menare le mani ovunque. Sì, sì, l'hanno diciamo ufficializzata questa. Ufficializzato quello che già stavano facendo, sì, e poi hanno continuato, perché appunto la NATO, che abbia fatto direttamente guerre o comunque i paesi della NATO sono sempre stati quelli che io chiamo, almeno negli ultimi decenni, sono sempre stati un asse della guerra diretta o per procura, e vediamo appunto fin dove si sono spinti. E per questo è abbastanza anche allucinante che poi l'Unione Europea, anche per non so se avete parlato di questo incontro abbastanza terrificante tra i ministri dell'Unione Europea. No, non ne abbiamo parlato, anzi, se lo dici, se ce lo racconti. Ah sì, perché è abbastanza appunto incredibile. Si sono riuniti a maggio in Turchia i ministri degli esteri e della difesa dei paesi della NATO e il segretario generale della NATO, che adesso non è più il Rasmussen, che appunto ebbe un attimo di notorietà al momento della guerra contro la Libia, un momento lungo che durò 7-8 mesi, ma è norvegese, e Stoltenberg. Sì, me lo ricordo. Questo incontro in cui appunto la NATO ha detto: guardate che la Russia è una minaccia per il mondo, e quindi abbiamo bisogno di più soldi e dobbiamo consolidare la nostra espansione nei paesi dell'est, e l'Unione Europea ha detto sì, della NATO abbiamo bisogno e quindi dobbiamo lavorare di più insieme. Ma la cosa davvero incredibile, perché è umorismo involontario ma umorismo macabro, è che hanno finito questo incontro cantando "We are the world, we are the children", Vuoi scherzare? Quindi, i bambini forse ammazzati dalla NATO. Ma no, vuoi scherzare? Cioè, siamo proprio fuori. Sì, cioè, sì, è così. C'è un video prezioso, suggerisco di cliccarlo abbastanza perché così si capisce che cosa hanno fatto. Appunto, digitando su Google incontro NATO, Mogherini, Stoltenberg, We are the world, we are the children. Una canzone, insomma, per la pace, per i cittadini, sì, del mondo. Comunque fa, quindi, diciamo che questa è una caratteristica, non ci stancheremo mai di dirlo, questa è una caratteristica proprio del neoliberismo, di questa fase dell'imperialismo, che si pone sempre in maniera sfacciata, spudorata, di un'ipocrisia senza confini, come tutela della pace, come tutela, sì, dei diritti umani, come tutela delle soggettività diverse, delle differenze, cioè in una maniera addirittura spudorata, cioè non eclatante anche, cioè l'ultima è questa dell'Expo, no? Nutrire il pianeta, cioè il balzo delle multinazionali macabro che fa, che però fa nutriamo il pianeta, cioè io non ho parole, questo, no? Le multinazionali tipo appunto Nestlé, Coca-Cola, sì, eccetera eccetera, siano, no, gli sponsor dell'Expo è un'altra cosa abbastanza incredibile. È così, cioè voglio dire, è l'emblema di come si muove questo sistema. Io non so però quanto le persone ci cadano e quanto ci vogliano cadere. È una domanda che noi ci siamo poste spesso, perché è un gioco che ormai è smaccato e portato avanti su tanti argomenti da tanti anni. Quindi o c'è un'adesione molto più forte a questo tipo di società di quanto noi pensiamo, nonostante i danni che fa e nonostante l'impoverimento oltretutto che ha portato anche ai paesi occidentali, oppure c'è qualcosa che non va, perché io ho paura proprio che ci sia che il neoliberismo ha propagandato, cioè che tutto sommato questa è la migliore società possibile, sia abbastanza passato. Passato, sì, anche secondo me è abbastanza passato, e la crisi non è ancora, tranne che per certi gruppi di popolazione, così spinta da far risvegliare le persone. Quindi sì, il messaggio che appunto tutto sommato la spandiamo vale, e però questo denota anche un grande egoismo. Lo diceva ieri in un incontro molto bello a Bergamo un ragazzo del Burkina Faso che vive in Italia, e si parlava del fatto che adesso appunto i sankaristi, quindi chi si richiama Thomas Sankara, il rivoluzionario che si è ucciso nel 1987, sembra che in Burkina abbiano qualche chance di andare avanti, e lui diceva però noi dobbiamo fare i conti con il fatto che non sono stati solo i paesi esterni hanno ovviamente fomentato il colpo di Stato che ha ucciso Sankara, ma dopo noi abbiamo accettato questo presidente per anni, e quindi anche noi abbiamo vissuto di piccoli egoismi, di interessi di parte, per cui ognuno, capito, aveva il suo piccolo, aveva il suo tornaconto, e quindi faceva questa affermazione particolare, e figuriamoci quindi per quanto riguarda gli occidentali. Ma rispetto a questo, scusami se ti interrompo. Se no, io dico, bisognerebbe scendere in piazza tutti i giorni contro la guerra, invece non si fa, semmai si può scendere se ti riducono, non lo so, alcuni diritti, però ormai non si scende più in piazza contro le guerre, e questo secondo me è egoismo, perché si pensa che le guerre danneggino solo lontano da te. Oppure le guerre sono camuffate così bene da operazione umanitaria per cui perdi le coordinate, e per questo io penso che abbiamo, ad esempio, sulla questione dei migranti, no? penso che sia fondamentale che in qualunque contesto, come si dice dal barista alla scuola, al posto di lavoro, non appena qualcuno evoca la questione del ci invado, no? Bisogna fare immediatamente il collegamento con le guerre, nella fattispecie con la guerra della NATO in Libia. Ah sì, ci invadono, ma quante persone lavoravano in Libia e con la distruzione di questo paese non possono più farlo? Dove devono andare? Com'è che poi noi non paghiamo mai i danni di guerra, delle guerre che abbiamo fatto, e non accettiamo nemmeno questo piccolissimo effetto collaterale? Quindi io farei sempre questo collegamento, ricordando poi anche che la NATO non fece soccorso in mare alla nave dei migranti, per dire. No, ma io mi chiedo sempre, cioè io penso e penso di essere molto vicina alla verità, che il Mediterraneo sia monitorato come l'orto dietro casa, cioè non c'è un millimetro quadrato di acqua che non sia sotto controllo, in cui non sappiano che cosa succede. Quindi se tutto questo tutta questa tensione pelosa sul fatto che le navi affondano, non affondano, i barconi, loro sanno benissimo tutto quello che succede, e in ogni sacrosanto momento, anche dei barconi affogati affondati e dei migranti affogati. Quindi soltanto quando diventa una cosa eclatante, che poi si può anche strumentalizzare, allora gli danno voce. E poi allora fa molto dimmi. Sì, ecco, proprio in questo scenario si fa quanto mai urgente la scelta e la necessità di riprendere una battaglia che potrebbe sembrare per partenza, invece va fatta, che è quella per l'uscita dalla NATO. E la buona notizia piccolissima è che ci sono delle cellule, sì, delle cellule che magari erano un po' dormienti, ma che si sono un po' risvegliate in vari paesi membri della NATO, e bisogna un po' individuare l'anello debole. Ad esempio, certo, c'era molto da sperare con il fatto che il programma di Siriza in Grecia avesse al punto 40, credo, l'uscita dalla NATO, ma mi sembra che non ne parlino più. E tragicamente, e questo va detto, all'incontro in Turchia, sembra quasi incredibile, ma all'incontro in Turchia, in prima linea a cantare We are the world, we are the children, c'erano il ministro della difesa greco, che non è di Siriza, ma comunque è il ministro della difesa del governo di adesso, è il ministro turco. Quindi due nemici eterni si prendevano per mano e cantavano sotto la bandiera della NATO. Ecco, questo è un po' terribile. Però nella stessa Podemos, non so su quanto ci si possa contare, ma anche loro hanno promesso un referendum per uscita dalla NATO. Ci sarà il giorno 30, quindi tra pochi giorni, a Parigi, un incontro tra realtà spagnole, francesi e di altri paesi, appunto per strutturare una campagna internazionale, perché una campagna in un solo paese non si può fare. Ma a livello italiano la campagna No Guerra, No NATO sta andando avanti. C'è un appuntamento che mi permetto di suggerire, di vari gruppi, per chi abita a Roma, il 2 giugno davanti all'ex aeroporto di Centocelle, l'aeroporto militare. L'abbiamo messo anche sul blog. Sì, sì. Come? Dai, ho detto, l'abbiamo anche messo sul blog. Ah, benissimo, benissimo. E questo è un piccolo momento, ma per dire che la campagna va avanti, c'è una raccolta di firme, si è fatto un volantino stringato e abbastanza efficace, che è disponibile facilmente, e quindi ecco, è un impegno da prendersi a vari livelli, a seconda della di come ciascuna persona si può muovere. Sì, sì, anche noi riteniamo fondante come parola l'uscita dell'Italia dalla NATO, per che secondo noi poi forse uno dei modi per far passare un discorso di questo tipo, perché non rimanga una petizione di principio, magari come posizionamento ideologico, è quello che per noi la politica di aggressione e sul fronte esterno, la politica di aggressione sul fronte interno, perché io ribadisco che la NATO ha fatto l'Urban Operation 2020, che è riferito alle popolazioni occidentali, e quindi è una polizia che sarà messa sono operazioni di polizia che saranno messe in atto qui da noi. Cioè, bisognerebbe far passare il discorso che la NATO è un pericolo non soltanto perché noi esportiamo le guerre, ma è un pericolo per noi diretto qui adesso, e finché ce lo teniamo in casa è un pericolo terribile per... Io lo sai che noi siamo tutto fuorché nazionaliste, tutto fuorché filo occidentali, però l'Occidente, inteso come Europa, in caso di conflitti di un certo tipo, e l'Italia in particolare con tutte le basi che ha, sarà quella che ci andrà in prima linea. È in prima linea, no? Allora, la gente qualunque, noi possiamo farlo come militanti un certo tipo di discorso, ma la gente qualunque deve rendersi conto che lei sarà in prima linea, e non c'è più differenza fra chi andrà al fronte e chi resterà qua, non siamo più nella prima guerra mondiale, qui siamo andati oltre, quindi chi va al fronte e chi sta qua non c'è più il soldato, c'è tutti al fronte in un certo senso, sì, esatto. Del resto lo stesso, ecco, le popolazioni che stanno a ridosso di certe basi militari questo l'hanno capito abbastanza bene, oddio non tutte, ma perché poi c'è sempre il ricatto occupazionale, quindi c'è chi lavora presso le basi NATO e quant'altro, ma il movimento intorno a queste basi c'è e va, e anche lì ci dovrebbe essere uno sforzo per un'intesa, per più collaborazione, ecco, si fanno tante lotte ma sono un po' spartagliate. Ecco, campagna più precisa per l'uscita dalla NATO permetterebbe anche di mettere in uno stesso contesto tutte queste lotte. Poi c'è da riprendere il discorso famoso del 2007, la proposta di legge che non è mai stata discussa, di iniziativa popolare, raccolte 70.000 firme eccetera, per la chiusura delle basi non strettamente italiane, certo, sul territorio nazionale, a cominciare da quelle che hanno armi nucleari, a proposito dei pericoli interni, esatto, no? Abbiamo delle armi nucleari, delle navi con armi nucleari nei porti italiani. Certo. Allora, senti, noi ti ringraziamo tantissimo di questa corrispondenza, perché ci tenevamo moltissimo, ribadiamo anche noi fuori l'Italia dalla NATO, sì. Assolutamente. E fuori la NATO dall'Italia. E fuori la NATO dall'Italia. Tutte e due. Anzi, da tutta l'Europa. Diciamo fuori la NATO dal mondo. Fuori la NATO dal mondo. E sai che pace allora dopo. Va bene. Grazie tantissime, ciao, grazie, un abbraccio a e alla prossima, ciao. Ciao, grazie. Vabbè, per dare una chiusura sicuramente più divertente, insomma, anche se non lo è comunque, sulla egemonia imperialista, volevo un attimo riportare poi a quello che è il vissuto, no? E anche quello di cui parlava Marinella, che insomma appunto diceva che poi bisogna prendersi anche le proprie responsabilità nel momento in cui poi appunto lei faceva l'esempio del Burkina Faso, nessuno di loro poi ovviamente ha fatto nulla per lottare o comunque far sì che, no, che quel sistema non passasse. E questo è avvenuto ovviamente anche da noi, perché non so, anni fa, insomma parecchi ormai, almeno, no, un vago sentore nell'area anti-americanista almeno c'era, cioè l'imperialismo era americano e questo più o meno sembrava chiaro a chiunque. Ora nemmeno questo, quindi siamo passati proprio a una sussunzione completa dell'egemonia imperialista, e che passa attraverso i corsi di studio all'università di scienze politiche, di storia e di tutte quelle materie che si occupano di questioni diciamo più attuali, e quindi dobbiamo studiare tutto l'ordinamento dell'Unione Europea, tutto l'ordinamento della NATO, dell'ONU, di tutti i vari comitati e bazzecole varie, e quindi sossumiamo questo sistema. E quindi in realtà quello che ci viene proposto già dalla formazione è che noi dobbiamo andare a finire in questi corpuscoli, no, para Stati Uniti, e i film eccetera. L'esempio che vi volevo portare è recente, e vi leggo proprio il titolo di Repubblica, perché secondo me proprio al di là poi della questione rende perfettamente quello che stavamo dicendo anche su un altro argomento. USA accusano la FIFA, hanno corrotto il calcio ma li elimineremo, la protesta della Russia. Allora, l'America sta investendo sul calcio europeo, investendo parecchi soldi, tant'è che stanno per costruire uno stadio qua a Roma con i soldi americani, e anche su questo investimento, anche su questo loro interesse, subentrano sempre col suo di discorso che loro riporteranno la legalità, loro riporteranno la democrazia, loro si assurgono a questo ruolo di protettore e di spazzino, no, dell'intero mondo. E adesso ovviamente sono passati pure all'ultima cosa che rimaneva, perché non c'era più niente da prendere, ovviamente hanno visto il calcio, hanno detto vabbè, mi prendo pure questo, tanto non c'ho niente da fare. Questo per ricordare che l'imperialismo è statunitense. Chiudiamo con quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, e con una poesia che ci ha mandato Dennis, e qui vi salutiamo. Questa lunga maratona ci siamo prese stasera, questo mercoledì, 2 ore, quindi vi lasciamo con la poesia. Vi ricordiamo che potete trovare tutti i materiali sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, che potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org, e un abbraccio grandissimo a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della propria libertà. Surrealpolitik. C'è qualcosa di più dell'acqua che mi scorre addosso, dalla testa al piano doccia, incandescente, magma, dei sorrisi a mezza bocca, che indosso come fossero lividi, poiché in fondo lo sono. Forse è l'utopia, ma non sono mai stato un bravo utopista. Non ci credo nelle isole lontane, dalle previsioni meteo felici. Forse è la lingua che mi sbattono sempre sul dente che duole, a 6 miliardi di persone. Forse è questo assassino avvolto nel cellophane che cercano di ficcarmi in gola. In ogni caso, pace e amore un cazzo. Questa cosiddetta pace mi apre in due a manganellate. Quest'ordine sociale è un castello di carte e a me le carte fanno schifo. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls.